Mango Tart legge Mena Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 13. 5 giorni dopo, Hermione era seduta sul pavimento vicino alla finestra a piegare quello che era, secondo il suo conteggio, la sua 236esima gru di carta, quando la porta si aprì e un giovane uomo la scrutò. Vagliò la stanza con gli occhi e quando si fermarono su Hermione, entrò e chiuse rapidamente la porta alle sue spalle. Aveva un'espressione sfuggente e la fissava intensamente mentre si faceva avanti. Sembrava essere di fretta. Era di corporatura solida, con i capelli scuri e il viso spigoloso. Indossava un abito elegante, blu scuro. Aveva una folta barba sul viso. La risposta istintiva di Hermione alla sua vista fu di totale terrore. Si bloccò, come pietrificata, e lo fissò. Non c'era nessun posto dove scappare, non poteva nemmeno urlare. Non le era mai venuto in mente che un estraneo potesse entrare un giorno nella sua stanza. Si bloccò leggermente mentre si avvicinava, notando la sua espressione. «Non ti ricordi di me?» disse lui, sorpreso. Sembrava esserci una punta di offesa nelle sue parole. Hermione lo studiò disperatamente, cercando di indovinare chi fosse. Le sembrava vagamente familiare. Forse qualcuno della scuola? Qualcuno che non conosceva bene? Continuava ad attraversare la stanza. Era a metà strada e le mani cominciarono a tremarle mentre si sforzava di pensare a cosa fare. Se non fosse scappata, avrebbe dovuto togliersi di torno o lui avrebbe potuto semplicemente ordinarle di fermarsi. Forse se si fosse tappata le orecchie, ma lui avrebbe potuto semplicemente schiantarla. Non poteva. Lui era a pochi metri, l'espressione sempre più trionfante. Improvvisamente ci fu un forte crack e Malfoy si materializzò accanto a lei dal nulla. Hermione trasalì e si ritrasse verso di lui, allontanandosi dall'estraneo che si avvicinava. L'espressione intensa e trionfante sul volto del giovane sfumò bruscamente nell'indifferenza alla vista di Malfoy. La mutevolezza della sua postura crollò mentre si raddrizzava e si guardava intorno. «Hai smarrito la via, Montague?» chiese Malfoy con freddezza mentre faceva un piccolo passo davanti a Hermione. Lui alzò le spalle. «Sto solo facendo un giro», disse. «Mi sono incuriosito vedendola. Hai messo un sacco di protezioni su questa stanza, Malfoy». Gli occhi di Hermione sfrecciarono verso le pareti. Ce n'erano. Non ci aveva mai fatto caso. Era difficile individuare certi tipi di barriere senza una bacchetta o un po' di magia per entrarci dentro. «Il Signore Oscuro me l'ha affidata con istruzioni specifiche riguardo alla sua cura. È sempre utile sapere quando qualcuno sta trasgredendo», rispose lui. Il suo tono era di puro ghiaccio. Montague si mise a ridere. «Non le è permesso ricevere visite?» «No, non lo è», disse Malfoy, allontanandosi da Hermione dopo averle dato l'occhiata più superficiale possibile. «E se fossi stato solo curioso, avresti potuto chiederlo. È quasi mezzanotte. Forse dovremmo tornare alla festa. Sono sicuro che Astoria ci vorrà lì». Malfoy attraversò la stanza e aspettò che Montague lo seguisse. Lui sembrava prendere intenzionalmente tempo. Si guardò di nuovo intorno, nella stanza, e poi guardò di nuovo verso Hermione. L'intensità tornò nei suoi occhi mentre la fissava, con Malfoy alle spalle. Qualcosa. C'era qualcosa che stava cercando di comunicarle. Poi si voltò e seguì Malfoy fuori. Hermione fissò la porta che si chiuse dietro di loro per diversi minuti. Montague. Graham Montague. Era stato nella squadra di Inquisizione ed era stato capitano della squadra di Quidditch dei Serpeverde. Fred e George lo avevano spinto nell'armadio svanitore al 5° anno. Lo conosceva appena, e lui la conosceva appena. Quando l'aveva conosciuto al punto che lui si sarebbe aspettato che lei lo riconoscesse? Mentre pensava, mise da parte il pezzo di carta che le sue dita tremanti avevano distrutto. I Malfoy stavano tenendo una festa di Capodanno, al Manor. Non ne avrebbe avuto idea se Montague e Malfoy non fossero apparsi. Si alzò e andò verso la porta, esitando. Voleva vedere la gente con i suoi occhi, ma il pensiero la terrorizzava. Se qualcuno l'avesse vista, avrebbe potuto farle tutto quello che voleva, a meno che Malfoy non si fosse presentato e lo avesse fermato. Il suo acuto, istintivo sollievo al suo arrivo prima la sconvolse in più modi di quanti ne volesse pensare. Meglio il diavolo che conosci che quello che non conosci. Rimase davanti alla porta per diversi minuti prima di aprirla con esitazione. Strisciò lungo il corridoio e si infilò in uno dei passaggi di servizio in disuso che si snodava verso l'ala principale della casa. A poco il suono di un quartetto d'archi cominciò a raggiungere le sue orecchie, accompagnato dal brusio delle conversazioni. Si fermò e ascoltò. Musica. Erano anni che non sentiva la musica. Si fermò e si appoggiò al muro per assorbirla, chiudendo gli occhi e respirando al ritmo delle corde. Aveva dimenticato come ci si sentisse ad ascoltarla. Dopo un quarto d'ora si ricordò di se stessa e continuò per la sua strada. Aprì una porta e sbirciò in un corridoio buio per vedere se fosse libero. Stava per uscire quando sentì un fruscio di stoffa e la risatina di una donna. Fece un brusco passo indietro e vide Astoria sfrecciare dietro l'angolo afferrando il polso di qualcuno. Un polso maschile che chiaramente non apparteneva a Malfoy. Non riusciva a vedere chiaramente nell'oscurità, ma la corporatura dell'uomo era sbagliata, più grosso e più basso, e non abbastanza pallido o biondo. Astoria si appoggiò al muro e l'uomo si avvicinò a lei finché Hermione non riuscì più a vederla. Sgranò gli occhi quando le risatine lasciarono il posto a respiri affannosi. Non aveva... non era una cosa necessariamente sorprendente, solo che Hermione non si aspettava di incontrarla. Improvvisamente due gambe bianco latte divennero visibili mentre si avvolgevano intorno ai fianchi dell'uomo e i rumori presero una svolta, da ansimi a gemiti. Se ne trovò stranamente affascinata, finché non le venne in mente un pensiero orribile. Malfoy lo avrebbe trovato nella sua memoria. Fece un brusco passo indietro e fuggì silenziosamente su per le scale. Prese un'altra strada verso la sala da ballo. Era diventata abbastanza brava ad orientarsi nella maggior parte del Manor. Finché non aveva fretta e usava i muri come guida, poteva andare quasi ovunque. Al terzo piano c'era una piccola scala angusta e tortuosa che portava a un'alcova, un balcone sopra la sala da ballo. Supponeva che la festa si trovasse lì. Aveva sperato di andare in un posto dove avrebbe potuto ascoltare le conversazioni, ma la faccenda di Astoria nel corridoio aveva interferito. Ripensò a quello a cui aveva assistito. L'atto in sé non era sorprendente, ma l'indiscrezione le sembrava eccessiva. Tradire il marito in un corridoio pieno di ritratti della sua famiglia. Anche se si trattava di un matrimonio aperto, l'eccesso sembrava impolitico. Scivolò nell'alcova, si inginocchiò e sbirciò oltre la ringhiera, giù alla festa. La sala da ballo era piena di persone, tutte agghindate nei loro abiti più sontuosi. La stanza risplendeva di decorazioni, era scintillante. I lampadari brillavano di luce fatata e al centro della stanza era stata costruita una torre di coppe di champagne alta almeno 2 metri. Da lì lo champagne scorreva giù in una fontana magica senza fine. Era una festa destinata alle pagine mondane. C'erano diversi fotografi che scattavano per il giornale del mattino dopo. Hermione vide Paius O'Toole e diverse altre figure importanti del ministero. C'erano decine di mangiamorte che riconobbe. Un lampo di biondo pallido attirò l'attenzione di Hermione, che trovò Malfoy impegnato in una conversazione con Dolores Umbridge. Lei aveva un vestito rosa e fucsia, con una scollatura profonda e un ciondolo suggestivamente annidato nel seno. Stava sorridendo e toccando Malfoy sul braccio, ma lui rimaneva impassibile. I suoi occhi continuavano a guardarle il petto in un modo che sembrava essere un misto di curiosità e malessere. Prima che potesse prendere nota dell'interazione, una figura scarlatta attirò la sua attenzione. Le gettò un'occhiata e poi vi tornò. Alla festa c'era una surrogata. Fece scorrere gli occhi nella stanza e si rese conto che erano in 9. Le fissò con stupore. Non riusciva a riconoscerne nessuna. Erano tutte incappucciate e seguivano i maghi come fossero ombre. Tenevano le teste basse e le spalle incurvate in avanti, sottomesse. Alcuni dei maghi che accompagnavano erano mangiamorte. Ermione riconobbe Amicus Carrow, Mulciber e Avery. Gli altri erano più giovani. Pensò che uno potesse essere Adrian Pusey e un altro Marcus Flint. Le surrogate, si rese conto, venivano usate come status symbol, fatte sfilare per mostrare l'importanza della linea di sangue. Le si strinse il petto e contorse il viso mentre le guardava. Le donne non si avvicinavano tra loro. Presumibilmente era stato loro ordinato di non vagare. Ma quando due di loro si incrociarono per caso, Ermione vide le loro mani sfiorarsi per un istante. Per passarsi un messaggio o semplicemente per conforto non poteva dirlo dalla distanza in cui si trovava. Aveva dato per scontato che le altre fossero tenute chiuse in casa come lei. Chiaramente era una supposizione sbagliata. Era Ermione il caso eccezionale. Membro dell'ordine, con ricordi nascosti, manette stregate con la magia del sangue. Data all'Irive, portata da Voldemort. Era possibile che le altre ragazze avessero anche il permesso di uscire da sole. In effetti, dato che erano rintracciabili, non c'era necessariamente una ragione per cui non potessero farlo. Forse anche lei era tecnicamente autorizzata a fare una cosa del genere, anche se in qualche modo ne dubitava. Se non le era permesso ricevere visite, sembrava dubbio che Malfoy le avrebbe permesso di lasciare la tenuta. «Un minuto a mezzanotte!» chiamò gaiamente una strega dalla voce amplificata, interrompendo i suoi pensieri. «Preparatevi per i baci di Capodanno!» Astoria rientrò nella stanza. Si era raddrizzata le vesti e aveva un'espressione innocente. Ma c'era un leggero senso di disagio nella sua persona che sembrò evidente a Ermione. Il rossetto era debolmente sbavato. Non una sbavatura evidente, ma abbastanza da ammorbidirle con noncuranza la forma della bocca. Aveva un'espressione compiaciuta. La guardò mentre si avvicinava a Malfoy. Si era stampata in faccia una maschera affettuosa, ma c'era una scintilla di qualcos'altro nei suoi occhi. Malfoy la guardò con attenzione, ma la sua espressione non si scompose minimamente. Ermione non poteva vedere bene il volto di Astoria dalla sua angolazione. 10, 9, 8, 7. La stanza iniziò a intonare il conto alla rovescia per il nuovo anno. Mentre il conto finiva, Malfoy si allungò in avanti, l'espressione ancora vuota, e passò il pollice sulla bocca di Astoria. A zero, si chinò in avanti e premette le sue labbra contro quelle di Astoria. Una telecamera lampeggiò. La stanza esplose con fuochi d'artificio magici, applausi e sferragliare di bicchieri mentre la gente brindava. Le labbra di Malfoy rimasero premute contro quelle di Astoria, ma mentre baciava sua moglie alzò gli occhi guardando oltre la sua testa. I suoi occhi grigi e freddi si bloccarono immediatamente sul viso di Ermione. Lei si dimenticò di respirare. Si voltò, congelata. Lo stomaco le si rivoltò bruscamente. Il cuore cominciò a batterle fino a quando non riuscì a sentirlo nelle orecchie. Rabbrividì. Sentiva che avrebbe dovuto ritirarsi, ma si trovò intrappolata, come se fosse bloccata al suo posto dal freddo argento. Lui continuò a fissarla fino a quando Astoria non interruppe il bacio e si voltò. Poi abbassò gli occhi e un sorriso falso e aristocratico si incurvò sulle sue labbra mentre guardava la stanza, applaudendo senza entusiasmo per diversi secondi prima di afferrare un flut di champagne da un vassoio galleggiante. Lo scolò come se fosse colluttorio. Ermione si sedette e si premette le mani contro il petto, desiderando che il cuore smettesse di batterle all'impazzata. La festa durò per ore. Osservò attentamente le interazioni sociali, cercando segni di tensione e alleanze, cercando di identificare l'ordine sociale per capire cosa fosse stato tralasciato dal profeta. Notò Graham Montague che si muoveva nella folla e lo guardò per qualche tempo, cercando di discernere se ci fosse qualcosa di familiare in lui. Le sembrava completamente estraneo. Malfoy non si muoveva. Stava in piedi e lasciava che le altre persone si avvicinassero a lui. Per Hermione divenne sempre più evidente quali persone sapevano che lui era l'Aeriv e quali non lo conoscevano. C'era una sorta di riverenza e delicatezza nel modo in cui i giovani Mangiamorte si avvicinavano a lui. I Mangiamorte più anziani, come Mulciber, Nottesignor e Yaxley, invece lo trattavano con un misto di deferenza e risentimento. Anche se gli altri non sapevano perché Malfoy fosse trattato con tanta attenzione dai Mangiamorte, il rispetto era contagioso. La stanza si orientò intorno a lui in un modo che era snervante. Lui recitò la sua parte come un re benevolo. La freddezza e il senso di pericolo della sua persona era innegabile, ma la stratificava sotto una cortesia aristocratica. L'espressione dura e inflessibile che assumeva intorno a lei era assente. Sembrava indulgente. Sorrideva e si impegnava in quello che sembrava essere un flusso infinito di chiacchiere con chiunque si avvicinasse. Ma Hermione, incapace di distinguere le sue parole e semplicemente guardandolo, sembrava sempre freddo e annoiato. Erano quasi le 4 del mattino quando gli ultimi ospiti se ne andarono. Hermione si diresse con cautela verso la sua stanza. Non voleva imbattersi di nuovo in Astoria o in qualche sbandato. Quando raggiunse il corridoio che portava alla sua stanza, sbirciò dietro l'angolo e trovò Malfoy in piedi. Lui diede un'occhiata al corridoio e la vide immediatamente. «Ti sei divertita?» chiese. Lei esitò per diversi secondi prima di girare l'angolo e andare verso di lui, scrollando le spalle. «È stato più interessante che leggere», disse. Lui sbuffò. «Parole che non mi sarei mai aspettato di sentire da te», disse. Poi la fissò, gli occhi stretti. «Perché Montague è interessato a te?» chiese, inarcando un sopracciglio. Hermione alzò lo sguardo. Ovvio che fosse lì per quello. Era sorpresa che glielo avesse chiesto. Aveva, si era resa conto, una routine nell'esaminare i suoi ricordi. Lo faceva all'incirca ogni 10 giorni. Aveva saltato l'ultima seduta e l'aveva lasciata a Voldemort, ma si aspettava che si presentasse prima o poi, magari il giorno dopo. Se avesse voluto, avrebbe potuto semplicemente aspettare. «Non lo so», disse lei. «Lo conoscevo appena a scuola». Gli occhi di lui si accesero di curiosità. «Davvero? Intrigante», disse in tono meditabondo. «Sei così piena di sorprese». Hermione sgranò gli occhi. «Lo dici a tutte le ragazze?» chiese, in tono sarcasticamente dolce. Lui la guardò bruscamente e poi ridacchiò. «Vai a letto, sangue sporco». Nonostante la frase, non sembrava un comando. Lo fissò ancora per un momento prima di entrare comunque nella sua stanza. Era ancora in piedi nel corridoio quando lei chiuse la porta. Il giornale del mattino dopo aveva una foto di Malfoy e Astoria in copertina. Catturava il momento in cui lui allungava il pollice sulle labbra di Astoria prima di chinarsi a baciarla, mentre dietro di loro esplodevano fuochi d'artificio e stelle filanti. Sembrava dolce, romantico e intimo. Nella pagina successiva c'era una foto dell'Aeriv che uccideva diverse persone in Francia. Una ragazza sembrava vagamente familiare. Pensò che potesse aver visitato Hogwarts durante il torneo Tre Maghi. Non si era accorta che lui aveva lasciato il paese all'inizio della settimana. Piegò la foto di Malfoy e Astoria in un origami a spina di pesce e si divertì a farli cozzare l'uno contro l'altro e poi a schiacciarli. Strappò l'immagine dell'Aeriv in piccole strisce e la intrecciò in un sottobicchiere. In un'altra vita, pensò, forse avrebbe potuto divertirsi a creare decorazioni per le torte. Poi si alzò e iniziò i suoi esercizi. Stava tornando ridicolmente in forma, il che era una sensazione soddisfacente anche se per lo più inutile. Non importava quanto potesse incassare se non era in grado di sbattere davvero un pugno in faccia a Malfoy. Non aveva molto senso la resistenza quando aveva quasi un attacco di panico ogni volta che allontanava la mano dalla siepe di tasso o cercava di muoversi a una velocità che non fosse glaciale. Malfoy apparve nel tardo pomeriggio per esaminare i suoi ricordi. Non sembrò trovare nulla di particolarmente interessante nel suo recente passato. Non reagì nemmeno quando incontrò il suo ricordo di Astoria che si scopava qualcuno nel corridoio. Probabilmente i ritratti lo avevano già informato. Quando finì di passare in rassegna i suoi ricordi, si raddrizzò. Ermione scacciò il mal di testa e si mise a sedere, guardandolo. «Domani ti manderò un'ultima fiala della pozione», disse. Lei annuì. Non disse nient'altro prima di voltarsi per andarsene. Quella notte, Ermione elaborò nella sua mente un piano accurato per il giorno successivo. Se era davvero la sua ultima dose di pozione, c'erano diverse cose che voleva provare a fare prima che gli effetti svanissero. La mattina seguente non si fermò a leggere il giornale. Buttò giù la pozione prima che potesse esitare o temere l'astinenza che avrebbe sofferto più tardi. Poi si diresse fuori dalla porta con fredda determinazione. La sua prima destinazione fu l'ala sud del Manor, l'unica parte della casa ancora inesplorata. Iniziò dai piani più alti e scese verso il basso. Erano quelli in cui era meno probabile incontrare qualcuno, quindi poteva muoversi più velocemente. Quando raggiunse il primo piano, sentì che l'aria assumeva un'aria fredda e contorta che poteva percepire anche attraverso gli effetti della pozione. I capelli sulla nuca le si rizzarono e prese a sudare freddo. Magia nera. Era così densa nell'aria che poteva quasi sentirne il sapore. Si bloccò sulle scale per diversi minuti, riflettendo. L'istinto la spingeva fortemente a voltarsi e ad andarsene, ma era soffocato dalla pozione. La sua curiosità non lo era. Scese gli ultimi gradini e si mosse in direzione della sensazione. C'era una porta socchiusa. Sbirciò dentro. Era un grande salotto, completamente spoglio, neanche un mobile, nessun drappo, nessun ritratto alle pareti. Persino la carta da parati sembrava essere stata staccata. Non c'era altro che una grande gabbia al centro della stanza. La magia nera permeava sulla stanza, ma sembrava più concentrata intorno alla gabbia. Entrò lentamente e si avvicinò. Lì erano morte delle persone, molte persone, lentamente. La sua mente iniziò automaticamente a catalogare i rituali oscuri che conosceva e che creavano una presenza così duratura di magia contorta. Probabilmente un rituale simile aveva corrotto gli strati di magia intorno al Manor. Avvicinandosi, si accorse che la gabbia era incassata nelle pietre del pavimento, letteralmente inamovibile, a meno che non si strappassero le pietre delle fondamenta del Manor, e anche quello avrebbe potuto non essere sufficiente. Il solo fatto di stare vicino alla gabbia le faceva sentire in bocca il sapore di rame del sangue. La guardò attentamente. Era un centimetro più bassa di lei, quindi probabilmente era alta esattamente 1,5 metri e larga circa 1,5 metri. Abbastanza alta per un prigioniero per potersi chinare o rannicchiare. Si chiese quante persone fossero state tenute lì dentro. Un rumore la fece trasalire. Si voltò e trovò Malfoy sulla porta che la fissava con un'irritazione che rasentava la rabbia. «Certo che devi essere del tutto priva della ragione per venire fin qui», disse con voce dura mentre si dirigeva verso di lei.